D'ora in poi, amico, io e te faremo un'ombra sola. Bello. Come diceva sempre il mio vecchio, se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare. Ma se ti fidi ciecamente, allora diffida. Ah no, cioè, se hai un amico cieco... Beh, comunque, il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga. Fuoco alle polveri. Go Hell Paul Berry. Radio Bomba. E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Senti là gli urli di gioia e giubilo. Festa. Siamo di nuovo qua, ciao. Allora, ciao a tutti. Allora, puntualissimi come sempre. Come non sempre. 16:45 come ogni lunedì, perché tanto il quarto d'ora accademico ce lo prendiamo ogni lunedì. Ci pare giusto. Ma so benissimo che voi ascoltatori ci aspettate integerrimi. Sì, e con grande... Con in realtà ho notato una progressione quasi fibonaccesca nel nostro ritardo. Ah, attenzione. Abbiamo fatto una roba tipo 7, 9, 11, 15. È studiata, ci impegniamo ogni settimana per... dello studio, esattamente. Senti, sei sempre in cattedra ogni lunedì. Poi è brutto dire cattedra, preferisco banchi. Sempre sui banchi. Sui banchi della facciamo cattedra. Facciamo l'appello. Tu ci sei, Paco? Io ci sono, Tuco. Tuco? Ma che Paco, non è male. Ma è Paco da Belluno, cioè. Mi piace Paco. Ciao Lapo. Alla regia abbiamo... allora, cambia ogni volta o non cambia, signor... Mario. Cambia. E oggi io me li invento. Mario? Ah, no, io Mario. Ciao Mario. Te Mario. Io Mario sono, Mario Resta. E Mascalzone, la prima volta. Campanella! Salutiamo Mascalzone. No, prima. Mascalzone. Ah, non è la prima, scusa, perdona. Parla al microfono, Mascalzone. Eccolo. Chiedo scusa. Abbiamo invece alla nostra destra. So, mi rendo conto, però siete a destra. Eh sì, ragazzi, siamo a destra. Bricobaldo. Si sente a bestia. Buonasera. Non vediamo l'ora di sentire la tua voce. Altrettanto per la vostra. E ti aspetta. Salve a tutti. Ti aspetta. Con l'apostrofo o senza? Ti aspetterà. Al futuro, al passato. Tutti quanti i tempi d'attesa. Verbali li facciamo tutti. Buonasera. Allora, benvenuti buonasera. Tutti alla 39esima puntata. 39 ragazzi, è roba. Tante. È roba. 39 come? Come cosa? Dai. Come? Sentiamo. Come cosa? Allora, oggi, visto che parlavamo di banchi, chi interroghiamo? Grande Lago. Oh! Mascalzone. Allora, 39 come il club dei 39, altrimenti conosciuto in Italia come i 39 scalini. Tu, fautore del grande cinema, dovresti sapere che è un film del 1935 di Hitchcock. Certo, bravo. Dissimula. L'hai cercata proprio... L'ho cercata bella soda. Io conoscevo il club del 27, ma non... Però non so 39. Non è un film, poi... Ah, peraltro. Niente, trama molto interessante, un film un po' vecchiotto, perché 35, siamo anche in piena guerra. E... Non vi sto a raccontare la sinossi di tutto il film, mi piaceva il numero 39, però è un ottimo film, vi consiglio di guardarlo e poi magari ci sentiamo e ne discutiamo. È un film alla vecchia, quindi ha quei ritmi anche un po' hitchcockiani, un attimino, che non si è abituato. Hitchcockeschi? Ci piacciono. No, dica lei. Hitchcockini. Ci piacciono. Va bene, allora. Quindi, 10 e lode. Grazie. Io come educazione fisica alzo la media. E dunque, cosa ci mandate, regia? Pezzone. The Good, the Bad and the Queen History Song. Super Wombat. Hit the arch, a history song. apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni? Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca! Povero. A proposito di ritmi, a proposito di scalini vetusti, film stagionati, come 39 scalini, com'era? 39 scalini. Quanti erano quelli della corazzata Potionchi? Milioni. Ringraziamo la regia per questo contributo che ci ricorda come la nostra cultura abbia condannato un film alla rovina. Che palle, dai, quella che in Fantozzi era una critica alla società molto, molto attuale, molto mordente, è stata poi trasformata nel corso del tempo, quando si è perso la cognizione di cos'era la corazzata Potemkin e di cosa quindi rappresentava quella scenetta nel film di Fantozzi. C'è una cosa molto ironica, molto critica verso quel tipo di assetto, quel tipo di società, quel tipo di mentalità. Oggi è stato completamente perso, per cui è stata assunta questa citazione di Fantozzi a verità. Tutti pensano di conoscere questo film, chi non l'ha visto pensa di conoscerlo e se lo immagina come una cagata pazzesca. Una cosa lunghissima magari, quando poi anche in realtà dura, fra l'altro, se non sbaglio, un'ora e non di più. Dura poco. Per noi abbiamo fatto nostro il pensiero piccolo borghese del Fantozzi che Paolo Villaggio usava come critica feroce alla società in cui viveva, e che oggi invece abbiamo fatto nostro e siamo diventati quella società che già si prospettava essere a quel tempo, no? Quindi in diretta, direi, corazzata potete anche su Wombat. La facciamo sentire tutta, tutta, proprio tutta. E poi potete valutare. Legati alle seggiole, no, però è giusto quello che dice. No, film magistrale, incredibile. Poi leggevo che di recente a Bologna si è svolta una proiezione in piazza Grande con tanto di orchestra in diretta che musicava, una roba pazzesca, un evento a cui la gente che passava di lì si fermava ridacchiando fra di sé, la cagata pazzesca, e poi invece restava lì tutto il tempo, appunto 72 minuti mi pare sia, incantata, affascinata da questa cosa intensissima che è l'opera di Eisenstein. E finisco qui la mia pipponata, che è molto... Grandi registi per noi oggi, ma anche grandi detti ci sono. Grandi detti. Grande Bricobaldo. Buonasera. Siamo qua. Siamo qua. Ci siamo in quest'area autunnale. Sì. Mannaggia. Sì. No, i colori cambiano, sono bellissimi. Sì, anche le voci, i nasi tappati. I nasi si tappano, il muco, eccetera, eccetera. Bene, comunque. Oggi siamo al 23 di ottobre, abbiamo passato già un mesetto di autunno, sì. Bello calduccio, fra l'altro, ragazzi, era da stare in mare. Eh sì, allora, oggi cos'è? Il 23 di ottobre è, se non erro, il 296esimo giorno dell'anno, ne mancano 69 alla fine, attenzione. I numeri ci piacciono sempre. Ci si avvia verso... Calcolatore. Calcolatore, sì, di Wikipedia. Non svelare le tue fonti. E insomma, cos'è oggi? E insomma, oggi appunto è San Giovanni da Capestrano. Ah. Oppure anche San Severino Vescovo. Non lo so, sceglietelo voi quello che vi piace di più. Il detto Capestrano. Sì, sì. Capestrano. Palesemente Capestrano. Ora cerchiamo dove si trova Capestrano. Il detto recita così: bisogna seminare con la mano e non col sacco. Allora, voi sapete bene che appunto, essendo autunno adesso, diciamo, appunto, seminare, cosa si semina in autunno? In questo caso si parla di grano, eh? Il grano viene seminato adesso, è stato raccolto in estate, verso fine giugno, inizio luglio, i campi sono stati lavorati e lasciati riposare, e quindi adesso è l'ora della semina, e come ci dice il nostro detto, appunto, si deve seminare a modino, con la mano, a manciate, e non svuotando il sacco semplicemente nel campo. Tipo, veloce e bene, non stanno insieme. Esattamente, ragazzi, dovete fare le cose a modino, da ora in poi. È importante. Perché cioè, arriva l'inverno, se non arriva l'inverno, se non semina sacchi, i sacchi non crescono sugli alberi, e quindi è inutile, ragazzi, seminare sacchi. È un casino. Poi mangiate sacchi, degli USA, insomma. Un sacco di sacchi. Meglio un sacco di sacchi che un... Basta. E nemmeno seminate vento se non volete raccogliere tempesta. Esatto. Battaglia sui detti. Attenzione. Bene, ragazzi, fatene buon uso di questo detto, che sia di ispirazione per questo inverno, che deve essere, insomma, produttivo in qualsiasi senso vogliate intenderlo. Produttivo, spero, soprattutto per la mente, per lo spirito e per la socialità. E così sarà anche questa trasmissione. Come questa trasmissione semina un chicco per volta, una rubrica per volta, una canzone per volta. E poi chissà cosa raccoglieremo, Chissà. Chissà un giorno che cosa raccoglieremo. Allora. E su questo io. Beh, grazie Lilo, grande. Viva Bricco, viva. Grazie Bricco. Ragazzi, dai, ci sentiamo dopo. Io rimango qua con voi. Non c'è una sigla ancora per... Non c'è una sigla, no, ma i detti sono un po'... Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che le sigle spuntano come funghi. E i funghi, fioccano. Tra l'altro, fioccano come neve, allora. Bella. Viva la metafora. Viva le metafore, no, quindi le peccato, ora non ce l'abbiamo. Se no la brusca ci pacchetta. Ne sentiremo presto tante. Volevo dire una cosa, a proposito dei nazi tappati. Ho scoperto l'altro giorno che gli scienziati hanno scoperto che ci sono dei... No, voi sapete che ci sono dei gusti primari. Sono tipo le ricerche statunitensi in... No, questi primari è bella. No, volevo la fonte. Dove le trovi? Dove l'ho letto? Su un libro di scuola. Sul libro di scuola di scienze, quindi, dai, insomma, va bene, scuola, elementari, no, delle medie, delle medie. Però c'era una cosa che non sapevo e quindi mi ha incuriosito, cioè ci sono i gusti primari, quindi sappiamo, tipo, appunto, il dolce, il salato, ci sono, stanno scoprendo, hanno scoperto anche, hanno evidenziato degli odori primari, tra i quali capeggia niente poco di meno che l'uovo marcio. Il marciume. L'odore dell'uovo marcio si lega perfettamente ai recettori del naso, per cui è uno degli odori primari. Lo sapevate? Io no. Bello. Pensate, no, non lo sapevo. Questa è una cosa. Vedi, utile. Non si finisce mai di imparare. Appunto, sui banchi. Bene, allora, pezzaccio marcio? No. Forse no. Allora forse è arrivato il mio momento. È arrivato un momento speciale adesso. Se sei carico, sì. Se non sei carico, come siamo? Io sono sempre allora, carico. Allora dai, per lanciarvi l'urlo dei Balcani. Prima nuova sigla. Yuri! Caccia! Vai che comincia! È un capolavoro! Applausi! E ringraziamo Grippo e Bruges che ci hanno, hanno lavorato. Dei maestri. Oggi non sono qui con noi, ma li salutiamo molto calorosamente. Assolutamente. Allora, vi avevo annunciato settimana scorsa... Yuri! Anche da sotto chiamano il nostro amico Yuri. Allora, vi avevo annunciato settimana scorsa che vi avrei portato delle favole albanesi. Ah, esattamente. Cioè, oh, qui... Sì, certo. Non sono un parolaio. Non sempre, via. Talvolta. Fiabe e leggende albanesi. Questo è il volumetto che ho sotto le mani. Molto carino. Colorato. Molto colorato, sì. Rusconi editore che fa proprio, c'ha tutta una serie, fiabe georgiane, fiabe arabe, fiabe dei pelli rossa, che mi sa che se le trovo le acquisterò. Ci ho trovato all'usato, questo è libricino usato, viva l'usato. Viva l'usato. Esatto. E allora, fiabe albanesi. C'è da fare un'introduzione veloce senza tediarvi, però molto, molto divertente. Cioè, molto divertente, no? Interessante. Diciamo che Albania, terra di passaggio, in realtà, perché i Balcani sono una terra di passaggio, soprattutto in tutta l'età moderna e medievale, perché era il passaggio tramite il quale il turco poteva arrivare in Europa. Da Costantinopoli. Esattamente, e quindi fondamentalmente è una terra percorsa da invasori, percorsa da migranti. Truppe e anche un popolo, sì, costretto spesso a rifugiarsi, migranti e alle violenze degli invasori. Quindi di cosa parleranno le favole albanesi se non di questo? Ci sono principalmente i due nemici principali dei nostri amici albanesi, sono il cane turco, ma non solo, anche il cane veneziano. Il cane veneziano viene descritto in plurime fiabe come appunto un cane che spolpa quello che resta della carcassa uccisa dal cane turco. Ma di una banda di cani. Il cane di Dio? No, quello le crociate, i papi che mandano. Quello non c'è. Dal punto di vista religioso, terra un po' mista, principalmente greco-ortodossa, ma anche con frange musulmane. Ma sappiamo bene che la religione va al di là di solito della guerra, e purtroppo, soprattutto in quei tempi, non era così. E quindi, però, questo sottofondo triste l'hai voluto. No, il sottofondo triste lo volevo quando leggevo. Ah, infatti, torniamo a Kalashnikov. Però, allora, torniamo a Kalashnikov, dammi un po' di energia. Attenzione. Ecco, vabbè, prendiamo il Kalashnikov, perché in tutto ciò come reagiscono nelle fiabe i nostri amici? A Kalashnikovata. A Kalashnikovata, esattamente. Cioè, sono tutte storie fondamentalmente in cui si narra l'eroismo di difendere appunto la propria terra, la propria casa dall'invasore a costo della morte. A costo della morte, quindi le storie raccontano, molte storie sono sugli eroi. E tra l'altro uno degli eroi si chiama Homer. Beh, un eroe che torna spesso è Homer, che è questo eroe che difende, insomma, un sacco di volte, fa delle stragi incredibili, perché chiaramente sono sempre fortissimi i nostri difensori dell'Albania. Un partigiano. Dall'altra parte le donne, che chiaramente in quell'epoca non combattevano, però combattevano a modo loro. Infatti il leitmotiv è donne che subiscono le angherie dei nemici, dei turchi, che cercano di farsele in qualche modo, cioè di prenderle. E sistematicamente o non ci riescono grazie a un eroe, oppure le donne albanesi, secondo queste fiabe, pur di non subire queste violenze, si uccidono. C'è la storia, ma tante storie davvero, in cui la morte è considerata appunto eroismo, anche quella delle donne. L'ultimo atto di resistenza. Esatto, tipo la storia di Rina, una per tante, che un giorno va al porto, al mercato, c'è questa nave piena di sete, sale sulla nave, ci sono i commercianti, fanno: abbiamo un sacco di sete, ah che bello, fammele vedere. Ah, scenda giù, che vi faccio vedere. Lei scende, comincia a guardare le sete, dopo un po' si accorge che la nave si sta muovendo e dice: oh, cosa non succede? E i mercanti si svestono nelle loro false spoglie e sono dei pirati in realtà. Ah. E quindi lei viene rapita e dice: oh mio Dio, allora cerca di impiesasire i pirati, dice: fatemi almeno andare un attimo in coperta e guardare all'orizzonte, mio figlio si allontana e gli auguro tutto quello che gli devo augurare. Lei esce, fa questo mega discorso, strappalacrime, lacrime, dopodiché quando questi pirati hanno abbassato un attimo la guardia, lei si tuffa in mare e muore. Eh sì. E si uccide. E così, sono tristi. Fiabe... un po' come sono le fiabe di quelle, insomma, come anche quelle dei fratelli Grimm, cioè che finisca male. Le fiabe migliori sono le fiabe migliori, perché l'idea era educativamente che comunque il bambino non deve allontanarsi dall'idea della morte, perché è qualcosa di naturale. Però c'è sempre la parte educativa in fondo che ti dà la morale, ma non per questo, come vuole il nostro maledetto Disney. Deve essere sempre tutto vattato, deve essere sempre tutto rassicurante, felice, gli uccellini che cinguettano e vissero sempre felici e contenti. Esatto, si può vivere felici e contenti anche nella disgrazia, ci raccontano queste storie. Ci sono storie anche molto divertenti. Non so se era questa la morale. Comunque, no, questo l'aggiungo io, aggiunge Tuco. C'è un'altra storia molto divertente, sempre donne che scappano da questi maledetti che le rincorrono. C'è questa ragazza che scappa nei boschi per non farsi rincorrere. Per non farsi prendere, viene rincorsa da tutti i turchi e cercano di prendere, ma lei è super veloce nel bosco, non si fa prendere. Ma un giorno arriva questo soldato erboruto che riesce a acchiapparla. Riesce a capire, fa: oh, maledetto, allontanati da me, che maledetto turco. E fa: oh, ma io non sono turco, io sono albanese, fui preso schiavo e ora sono un soldato, perché avevo una sorellina. Ah, avevi, io avevo invece un fratello che avevano preso, quindi nel momento in cui lui stava cercando di stuprarla, scoprono di essere fratelli e allora finisce la storia in bellezza. Un tentato stupro a lieto fine. Con lieto fine, sì, molto. Esatto. E la morale? La morale è sempre quella: fai merenda con Girella. No, la morale non la so qual è la morale in questo caso. Che dietro ogni stupratore ci può essere voi la morale. Fratello. Dietro ogni stupratore c'è un potenziale fratello. O meglio, dietro ogni vittima di stupro potrebbe... Cioè, secondo me è banale non andare da sola nei boschi. No, perché invece noi dovremmo poter andare tranquillamente da soli nei boschi e invece c'è sempre l'orco. È l'orco che non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere... lì legittimato a fare i suoi porci stupri. Giusto. I suoi porci, sì, comodi, sì, sì, affanculo, vero, il, bosco, il bosco è per tutti. Deve essere libertà, cioè, il bosco, non costrizione. Va bene, allora andiamo nel clou della mia musica rubrica triste. Musica triste per leggere Il vecchio e la fanciulla, che inserisce l'ultimo tema di questa raccolta di fiabe. E sia. Bene dice chi dice: il giovane con i giovani e il vecchio con i vecchi. Ebbene dice chi dice: il giovane con i giovani, con l'aprire con la bellezza. Così dicono i saggi. Ma sentite che cosa accadde una volta. 9 giovani arberesce si erano messi alla ricerca di 9 ragazze arberesce per sposarle. I loro antenati avevano raccomandato loro di non prendere donne straniere, perché è la madre che conserva la dolce lingua degli antenati e la trasmette ai figli con il latte materno. Dunque i nuovi giovani arbesce partirono per il Veneto a cercare 9 ragazze arbesce e fare nuovi matrimoni. Arbesce è un termine albanese. Per strada incontrarono un vecchio canuto, zoppo e gobbo. Dove andate, giovanotti? Andiamo a cercare 9 ragazze arbesce per sposarci. Posso venire anch'io con voi? No, tu sei vecchio e non puoi venire con noi. Non fa nulla che sono vecchio. Se andate a cavallo, prenderò un cavallo che mi porti con voi. Se andate a piedi, fatemi un bastone di Erica perché possa appoggiarmi e rallentare un po' il passo. Bene, allora vieni con noi, povero vecchio. Lungo la strada trovarono un cespuglio di Erica, ne fecero un bastone per il vecchio e si incamminarono tutti insieme. Non con il passo dei giovani, ma con il passo dei vecchi. Cammina, cammina, arrivano a un posto dove trovarono delle ragazze albanesi molto carine. Ma cosa avvenne? Il vecchio si fece avanti e disse: visto che sono venuto insieme con voi, voglio una tenera fanciulla anch'io. Signore, tu sei vecchio. Non fa nulla che sono vecchio, voglio una tenera fanciulla. Tiriamo la sorte. Bene, tirarono a sorte per scegliere le ragazze migliori. E proprio al vecchio toccò la fanciulla più tenera e la più candida. Il vecchio si rallegrò, si ringalluzzì e si mise a cantare. La ragazza ne restò naturalmente delusa e si mise a piangere. E gli disse: signore, hai i capelli bianchi? No, non ho i capelli bianchi, me li sono imbiancati al mulino. Ho lavorato per anni in un povero mulino, la polvere di farina mi ha infarinato tutto. Signore, hai la gobba? No, non ho la gobba. Un maledetto cavallo mi ha dato un calcio e la schiena mi si è storta un po'. Furbo. Signore, tu sei zoppo. Non importa se sono zoppo da una gamba, perché io mi appoggio al bastone e cammino molto bene. Ti metterò su un cavallo e ti porterò a casa. Ti farò diventare la prima delle signore, perché io sono molto ricco. Ma la fanciulla non voleva denari e ricchezze, voleva soltanto un uomo giovane. E domandò al vecchio: dove abiti, signore? Ecco, lì, ai piedi di quella montagna. Il vecchio allora si separò dai compagni, prese un cavallo, vi salì egli stesso, vi fece salire la fanciulla e se ne andarono. Cammina e cammina, arrivarono a un ruscello. Il cavallo si avvicinò al ruscello per abbeverarsi. Il vecchio scese dal cavallo e chiese alla ragazza un goccio d'acqua, perché la strada lo aveva affaticato molto. La ragazza diede da bere al vecchio tra le sue mani, e il vecchio disse: mia cara fanciulla, riposiamoci un po' qui all'ombra, che sono sfinito. Il vecchio appoggiò la sua testa sul grembo della ragazza e subito si addormentò. Cosa fece allora la ragazza? Si tolse il fazzoletto dalla testa e glielo legò agli occhi. Si tolse la cintura e gli legò le mani e i piedi. Quando il vecchio si svegliò, la ragazza aveva attraversato 3 montagne ed era andata dritta dritta alla dimora di un giovane albanese. Il vecchio gridò: dove sei, mia candida fanciulla? Nessuno rispose, nessuna voce. Il vento sussurrava tra le foglie degli alberi, l'acqua del torrente gorgogliava. Il sole tramontava e lasciava il posto alla sera. Allora il vecchio si mise a urlare: oi, oi, chi passa oltre la montagna? Slegatemi, me poverino, che muoio qui e non mi posso muovere. Non lo sentì nessuno, solo l'uccello della montagna lo sentì. Ebbe compassione del vecchio, abbandonato, che si dibatteva sulla riva del torrente. Col becchio gli slegò il fazzoletto dagli occhi, col becco gli slegò la cintura e gli liberò le mani e i piedi. Il vecchio chiese all'uccello della montagna: «Oh uccello, sono qui. Hai visto da queste parti una fanciulla tenera e candida? L'ho vista, nonnino. Ha attraversato 3 montagne ed è andata dal suo giovanotto». Il vecchio si mise a piangere. Gli disse allora l'uccello della montagna: «Oh povero nonnino, alzati e vattene al tuo paese, perché le cose dei giovani non sono cose per vecchi. Non hai mai sentito dire il giovane coi giovani, come l'aprile con la bellezza?» Ma il vecchio gridò ancora: «Io voglio la candida fanciulla!» L'uccello gli disse: «Se non hai mai sentito il primo proverbio, te ne dico un altro. Il giovane con i giovani, il vecchio con i vecchi. La tua candida fanciulla è ora tra le braccia del suo giovanotto. Così avviene anche tra noi uccelli». Il vecchio si diede tanti pugni sulla testa, così forti che ne risuonarono i campi. Si strappò la barba e se ne imbiancò il terreno. Pianse e se ne riempirono i torrenti. La candida fanciulla si sposò col giovane e vissero felici e contenti. E i 9 giovani? Ognuno prese una bella ragazza al Brescia e tornarono soddisfatti al loro paese. Bellissimo. Storie strane, ragazzi. Un povero vecchio, comunque, dai. Storie strane. Però il giovane è giovane, il vecchio è vecchio. Sì. Alla fine questo qui voleva per forza la fanciulla giovane e lei non voleva la ricchezza, ma voleva la felicità col proprio amore. Non so, la leggiamo un po' così? Leggiamola un po' così, non so. Però ci sono esempi invece di giovanotte con uomini più attempati. Nelle fiabe? Nelle fiabe in generale? Nelle fiabe albanesi forse no. Nelle fiabe albanesi no. Nella realtà moderna è una cosa che... Io me la sono letta anche un po' come una critica sociale al vecchio ricco che viene dato per forza in sposa. Bravo anch'io. Alla giovane che vuole alti valori invece che la gretta materialità. Capito? E quindi ho scelto questo perché mi sembrava... Certo. Si presume che sia anche saggio un vecchio, però dai, insomma... Senza dubbio. Si presume. Io voglio spezzare una lancia a favore dei vecchi, dai. Cioè, comunque inizia che lui fa: voglio venire anch'io. E gli altri fanno: no, guarda, sei vecchio. Vabbè, vai anche a cavallo. Si va a piedi. Prendo il bastone, vabbè, vieni. Cioè, non è che hanno fatto tante obiezioni. Sì. Non era proprio in un crogiolo di cervelli. Sì, quello... Spiccava. Poi non la metterei tanto sul conflitto generazionale. Ma piuttosto? Sarà la donna di Garbai Giovani, il punto è chiuso, ecco, dice. Va bene, questo... No discriminazioni generazionali, ma neanche no all'obbligo di... alle imposizioni sociali. Vabbè, il punto qui è appunto l'imposizione, cioè lei viene data per forza in sposa a questo qui che se la sceglie a sorte, cioè... Anche no. E comunque anche poi no. Nella realtà sociale di oggi è anche un po' ribaltato il ruolo dei sessi. Adesso sono i toy boy che vanno parecchio, non è nemmeno tanto. Facciamo menzione di alcune recenti notizie. Lori del Santo, per esempio, sono personaggi autorevoli. Sì. Allora, questo era appunto il racconto delle fiabe. Spero vi sia piaciuto. Grazie, Tuco. Fiabe un po' fuori dal consueto. Vi lascio con un ultimo pezzo. Che ora manderemo per lanciare la prossima volta, e racconteremo storie non fiabe, ma storie da Bratislava. Racconteremo storie da Bratislava, storie vere, storie antiche, storie nuove. Yore! Wombat a tutti, all'Uro dei Balcani, ecco il pezzo che vi lancio. Tuco, ciao. La neve ha già coperto questa strada, col vento che sta mutilando gli alberi, i cavalli sono rimasti senza biada e Pietroburgo ancora non è qui. Bratisca, Bratisca, bevi un po' di vodka invece di quel tè. Bratisca, Bratisca, vedi che questo freddo non è niente, questo gelido fendente domattina sarà già passato. Bratisca, che lungo viaggio che farai, la seguiresti fino all'equatore. Bratisca, dolce padrone mio, col cuore traboccante di lealtà, di lealtà. La principessa forse è ripartita per qualche capitale d'Occidente, tu che ti trascini una ferita per questo inseguimento di follia. Bratisca, Bratisca, spera di riportare la mosca a casa tua. bratisca, non è sincera con te, che adesso non ragioni e rincorri dei mulini. C'è un amore che non ha futuro, bratisca, che lunga storia che vivrai, che ti consuma come la morfina. Bratisca, dolce fratello mio, col cuore che vuol trattenere lei, lei. Corri, bratisca, prenditi la vita, corri, bratisca. Corri, bratisca, lei è già partita, prendila, prendila, prendila e va. Bratisca. Bratisca, bratisca, spera. Bratisca. Bratisca, con il miraggio che vivrai, che ti consuma come la morfina. Bratisca, dolce fratello mio, col cuore che vuol trattenere lei, che fa. Bratisca. Invece è finito, invece è finito purtroppo. Lo volevamo risentire. Bellissima. Allora, il pezzo che avete sentito prima era di Enrico Ruggeri, Bratisca. Giusto per completezza d'inventario. E qui seminiamo, continuiamo a semitare. Com'è che sento un leggero sfrigolio nelle cuffie? Di chi è la colpa? Colpa vostra, la regia, la regia. Chissà, chissà. Vabbè, i nostri potenti tecnici medici. Chissà, chissà. È possibile, è possibile. Ah, con tutti questi. Ah, l'abbiamo scoperto. Sei te senza spina, ma... Pazienza. Sono io? Nulla, nulla, nulla, nulla. Ma io non sono mi attaccato. No, allora non lo sappiamo. Brrr. E vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo avanti nonostante questi piccoli inconvenienti che tanto non è che incidono a peggiorare le nostre già, onde mediocri. Le nostre onde mediocri, inconvenienti, esatto. Inutili. Inutili come cosa? Oh. Quando voli, voli, vai. Come... Nozioni inutili. Benvenuto ad Aspetta. Entriamo a pie pari in questa nuova... cosa con questa nuova sigla? Sono le scivolate di Olle Benji. Abbiamo una nuova sigla anche per questa? Ce sì, e sì, vedo sorridere dalla regia, sentiamo che parte. Sigla! Nozioni inutili. Che sigla, che sigla, grazie mille. Come sempre mi date gioia e soddisfazioni. E siamo alla quarta puntata di Nozioni Inutili. Beh, che felicità. Che felicità, che gioia. E insomma, in questa puntata abbiamo parlato di tante cose, no? E abbiamo parlato di un custode di Chicago, Modesto, che ha scritto più di 30.000 pagine illustrate. Abbiamo parlato delle nostre amiche Neo Capriterme Staracqua e dei grandi exploit discografici di Martinville. E invece oggi, come io non ho voluto farmi spoilerare la sigla, io non vi ho spoilerato fino adesso l'argomento. E qual è? Beh, magari voi un giorno siete a casa e vi state facendo le unghie dei piedi, no? Probabile, ve le state, sì, tagliando con le forbicine, e improvvisamente, sì, vi balena questo quesito improvviso, no? Come un fulmine a ciel sereno, perché è seminato vento e raccolto tempesta. E giusto. Qui, giusto, no? Per riallacciarci i proverbi. E questo quesito è: ma esiste una bomba che non uccide? Che non è letale? La risposta dopo la pubblicità. Oltre a questa bellissima canzone, che è una bomba, non uccide, ma non è una bomba in senso. Qui parliamo invece di arsenali. Ce n'è un'altra di bombe che non esiste. E la risposta è ni. Nel senso che questa bomba non esiste, ma nel 1994 la Wright Laboratory in Ohio ha progettato una, aveva proposto un'arma chimica non letale che rilasciasse feromoni sessuali femminili. È la cosiddetta bomba gay, che in poche parole avrebbe reso gay tutto quanto il plotone. Mi stupisce sinceramente che a tempo o per sempre? Non lo so, questo però comunque anche insomma l'omosessualità a tempo sarebbe stata interessante. Cioè, mi stupisco sinceramente che il Vaticano non stia pensando a una bomba etero o qualcosa del genere. Però comunque ci sono c'erano altre proposte ovviamente di armi chimiche, non c'era solo la bomba gay, ma anche quella che provocava l'ipersudorazione, la flatulenza e la litosi. Vogliamo sapere chi è che le ha progettate? Questa è Wright Laboratory in Ohio, che è diciamo gli americani, sono sempre gli americani. E tra l'altro qui dalla regia c'è stato proprio un grandissimo lavoro di ricerca, mi hanno detto che c'è un contributo audio del suono di questa bomba quando viene azionata, no? Sì, allora posso così mandare, ma sta ancora in carica, non so se basta l'accenno, tanto sì. Abbiamo l'accenno comunque di questo terribile ordigno e dei suoi effetti, no, quando appunto verrà sganciata sulle vostre teste potrete sentire qualcosa del genere. Questo, come vedete, è la terrificante detonazione. Questa è la bomba di feromoni. Esatto, assolutamente. Che condivido, perché Tom Jones, l'azino, è come fai a non apprezzare. E quindi cosa impariamo da questa cosa? Che non tutte quante le bombe uccidono, ma tutte quante le bombe te lo buttano nel culo. E questa è la morale di oggi. Mamma mia, è pessimo. Poi, tra l'altro, pensavo quando dicevi. Ma oggi le morali non sono il nostro punto forte, l'abbiamo capito dall'inizio. Ma la morale in generale non è mai il nostro punto forte. Beh, comunque, non so, magari se anche i nostri ascoltatori vogliono scrivere sulla pagina Facebook di Radio Wombat proponendo altri progetti per bombe con altri effetti, no? Tipo una bomba che esplode automaticamente. Poi pensavo che la bomba che non uccide, quando hai detto cioè esiste, non esiste, cioè pensavo fosse una bomba che era progettata per non uccidere e poi invece aveva fallito il suo. Una tipo bomba, il giubbottino per volare nel film di Chaplin sul grande dittatore, una cosa del genere. Sì sì, ma qui su queste cose di armi improbabili. Però detto questo, si assumono moralisti in redazione. Assolutamente, sì. E comunque progetti di armi improbabili ce ne sono tantissime. Io vi consiglio agli ascoltatori di andare a cercare su internet, perché c'è veramente una miriade, come la famosa lente solare di Hitler che metteva sul sole e voleva bruciare tutto, tipo, sai, con le formiche, no? Da bambino. C'è quella del signor Barnes che fa l'incontrario, quello vuole oscurare. Esatto. O come l'arianizzatore, non so se avete mai visto, come si chiama allora il film? Non me lo ricordo. L'hai visto solo te? No, è un film bellissimo, i nazisti sono nascosti nella parte oscura della luna e che rapiscono bellissimo i ragazzi di colore per arianizzarli, diventano bianchi e biondi, pazzesco! Comunque ci accende questo argomento delle armi inutili a quanto pare. Come si chiama? Armi improbabili, chissà come essere uccisi da un'arma improbabile, è più probabile essere uccisi da un'arma Vabbè, niente, andiamo avanti. Non uccidono le armi improbabili. Ci incartiamo su quale polveri. Che tra l'altro, se qui esplode una bomba gay, insomma, diventa una radio migliore. Sicuramente. Avanti, mandiamo la fine del pezzo. Che vuol dire la fine del pezzo? Rialza, mandiamo la fine del pezzo, dico. No, è ancora lì sul pezzo. Ah, il tuo? È il mio. Abbiamo ancora il tuco. Che gel lo sto facendo molto bene. Pensate a una bomba del genere che so in Medio Oriente, dove vige la sharia, dove le donne sono chiuse dentro il loro gruppo e gli uomini sono forti e guerrieri. A un certo punto una bomba, come si chiama la bomba? Non ha un nome, non ha un nome, cioè, non bomba data. Gay, bomba gay. G-bomb. Sono invece altre bombe che hanno fatto a pezzi altre cose qua nella nostra redazione. Una bomba è stata l'abbandono del nostro ovviamente il nostro nickname. Non voli come Tuco, fatelo dire, fratello. Non voli no, come Tuco, perché ci avremmo un pezzo nel mezzo qua. Invece questo fil rouge si tesse troppo in fretta. Vabbè, io volevo trovare l'introduzione perfetta per, vabbè, nickname, scusa, vogliono mandarti una canzone prima del tuo intervento, della tua rubrica, e quindi sia con questa canzone. Prima chiediamola, dai. Allora, sigla finale delle nozioni inutili, dopodiché passiamo con un pezzettino. Tu è sul pezzo, ragazzi. Che, certo, che ci dà energia per passare. Ma io sono qui per imparare, Alla, alla diretta indifferita. Wombat! Wombat! Nozioni inutili. Yeah. Mai fidarsi di un autista d'autobus nudo. Che in questo caso potrei essere io. Se è vero, ma giusto. E ringraziamo Mascalzone per questa selecta. Riconoscerete il tocco. Sì, sì. E come dicevamo, ci manca un po' il punk italiano, infatti. Parlavamo di bombe. Parlavamo di bombe. Di bombe, sì. Un'altra bomba che è esplosa. Un'altra bomba che è esplosa qua in redazione. Ha fatto a pezzi il nostro cuore. Sì, sì, sì, sì. Quando si impegna è bravo. Non c'è dubbio. Quando è bravo è bravo. Dai, basta con le... con i complimenti, che poi mi imbarazza tutto. Mandiamo la nuova, il nuovo contributo di Nino. Il nostro Nino che ci, da lontano ci manda O Cuore a pezzi. Con nuova sigla, frella. Con nuova sigla. Nuova sigla. Devi urlargli. Sei te quello che urla. Tienge O Cuore a pezzi. Ma che già fa? Buon pomeriggio, fuochisti e uombati. Oggi vi voglio super attenti, quindi cominciamo con una domanda super a bruciapelo. Oh, che Dio. Cos'è un Madison? Un Madison? È un medico che ha... Non lo so, cos'è un Madison? È uno square. Uno square center. Quella roba per fare la chitarra... Quello è il diapason. Il diapason. Io ce l'ho comunque, è Madison. Un figlio pazzo. Madison è... Scienziato. Madison Square Garden. Discesi, okay, quindi Madison, palazzetto dello sport newyorkese. Io penso sia un nome che, in cui si svolgono cui hanno partite fatto... di basket e concerti. O una ragazza di periferia del Tennessee. Ma penso sia proprio il nome comune. mi torna di più il Tennessee. Sentiamo invece Nino, dici tu. Nino, dici tu. Iniziano ad arrivare le telefonate. Attenzione. Una pausa. Allora, no, non è la capitale del Wisconsin. Cioè, lo è, ma non intendiamo quello. Intendiamo invece un... La risposta esatta quindi era un ballo ritmico anni 50 americano di origini chiaramente sudafricane. Non viene dall'America, non vuole passi sa. Si balla. È praticamente un ballo tipo il foxtrot. Sono dei passi semplicissimi e si ripetono in forma di quadrato. Quella che stiamo sentendo è appunto Madison italiano ed è il primo 45 giri inciso da questo gruppo che si chiama I Quattro Loris. Noi qui la sentiamo nella versione rieditata l'anno successivo nel 62 da Peppino Gagliardi. Questo nome vi dovrebbe suonare qualcosa, certo. Quindi vi rompo le palle come al solito. Che ha fatto Peppino Gagliardi? Aspetta, è pausa. Forza, dai, non si può indovinare. C'è la suspense qui. Che ha fatto Peppino Gagliardi? La tensione si taglia con un grissino. Canzoni per Madison, per ballare il Madison. Dai. Sentiamo se è buona, secondo me ci manda in culo. No, stai a sentire. Bravi, bravi, no, bravo, come le viole, l'ha suggerito. Sono tornate le viole qua giù. E ha fatto anche quell'altra bellissima che abbiamo già sentito. Che vuole questa musica stasera? Bene, è incisa dalla Primary, cioè anche i sogni miei non hanno età. Questo primo 45 giri una. Che come lato B ha Notte d'amore, che è praticamente una traduzione di Jealous Lover di Charles William. Che è la colonna sonora dell'Appartamento di Billy Wilder. Se qualcuno non l'ha mai visto questo film, L'Appartamento, non L'Appartamento di Billy Wilder, Billy Wilder è il regista, guardatevelo, insomma. La Primary appunto è una di quelle case discografiche che negli anni 60 cercano di sopperire al prolificare immondo e indecente di gruppi beat e rock negli anni 60 in Italia. Per dirla facile e darvi uno sguardo su questa cosa, tra i vari gruppi prodotti da loro ci sono Michelino e il suo complesso, Silvano Silvi e gli Erranti, I Campioni, che forse qui in mezzo qualcosa ci ricorda, nei Campioni li abbiamo già sentiti. E appunto campioni. I Quattro Loris. Chi sono questi Quattro Loris? I Quattro Loris sono un complesso molisano, fierissimamente molisano. Fondato da quattro campobassesi, penso si dica così, comunque quattro abitanti di Campobasso, il cui cantante appunto il frontman è il grande Alfredo Antonio Carlo Bongusto, conosciuto per gli amici che praticamente sono tutti coloro che lo ascoltavano e che lo ascoltano tuttora, è ancora vivo, Fred Buongusto, viene chiamato così, il grande, grande pensavo Fred solo Buongusto. Oggi gli italiano, chiamo invece, tutto il puntatore. Anche Fred Buongusto. Chi è questo Fred Buongusto? Fred è tipo il l'incarnato, diciamo, l'archetipo dell'italiano piacione, sentimentale, tipico, il nostro preferito, insomma, diciamo. C'ha una carriera, come tutti questi italiani tipici, ha una carriera di calciatore fallita alle spalle, che avrebbe potuto fare perché da bambino sembrava, però poi niente. Si appassiona alla musica casualmente, lo zio gli regala la prima chitarra e come tutti gli italiani nati in Molise, cerca di fuggire, va a studiare a nord, poi ritornerà, esperienza universitaria un po' fallita, ritornerà in Molise, anche qui proverà, inizierà a crearsi comunque il suo gruppetto, i Quattro Loris per l'appunto, di cui sentiamo ancora qui sotto il pezzo, poi andrà a Roma all'inizio degli anni 60 e lì esplode il suo successo, diventa famosissimo, tutto a un tratto, già con i primi CD col nome di Fred Buongusto, i primi 45 giri. Un pezzo su tutti, questo qui. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Piace tantissimo Fred, ma soprattutto perché è uno di quelli dei cosiddetti crooner, ne parlammo già, se vi ricordate che cosa vuol dire. Bravo, erano i bisbigliatori, cioè quei cantanti che con l'avvento del microfono potevano parlare piano piano e far impazzire le donne. Che si ispirano un po' al cantato di Frank Sinatra, alla musica americana di quel periodo. È molto amico di Peppino Di Capri, Fred Buongusto, e diventa comunque molto importante, idolo amatissimo, gran farfallone, insomma, come dirlo senza essere volgari. Farfallone elegante, in effetti. Fa anche dei film negli anni 60 molto divertenti, entrambi dal titolo io non li ho visti, ammetto. Uno si chiama Questi pazzi pazzi italiani ed è proprio uno di quei tipici musicarelli di Tullio Piacentini. Dentro c'è sia Buongusto, ma c'è anche Edoardo Vianello, che abbiamo sentito la scorsa volta, e Murolo, quello napoletano, appunto, dell'antologia della canzone napoletana che abbiamo già sentito. E c'è anche questo meraviglioso gruppo delle amiche, questo è il nome del, non lo so, muoio dalla voglia di vederlo. E poi c'era un altro che si chiama Obiettivo ragazze raggiunto, stop, missione compiuta. Questo è il titolo di un altro incorreggibile film proprio di Mario Mattioli, di Mario Mattoli, in cui recita, appunto, Buongusto, oltre che fare la musica. Mo ci spariamo comunque il primo pezzo della giornata, che è Amore Fermati, una delle mie preferite, del 1963 della Primary. Amore Fermati, Fred Buongustone. Boom. Amore Fermati, questa sera non andartene, un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Amore, baciami, siamo soli, amore, baciami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Il mar, stasera appartiene a noi, la luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Thank you. amore, fermati, sta vicino ed accarezzami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così, ma non t'ho amato mai così, ma non t'ho amato mai. L'inizio era è stato risato da Willie Peyote. Può essere stati negli anni 60, entriamo negli anni 70 con questa colonna sonora, che è la colonna sonora di un film che vi voglio raccontare brevissimamente. Un film proprio del 1970 di Alberto Lattuada, stato un regista abbastanza importante della commedia all'italiana anni 70, diciamo, come possiamo dire Risi, Monicelli, eccetera. Questo autore, per esempio, di Anna, di Delitto di Giovanni Episcopo, tratto da D'Annunzio. Vabbè, in generale vi racconto questa storia di questo film che si chiama Venga a prendere il caffè da noi. Immaginatevi questo personaggio con la faccia chiaramente di Ugo Tognazzi, che è proprio il simbolo, anche lui, per parlare di proprio dell'aido, del marpione intrallazzone italiano. Insomma, Ugo Tognazzi è Emerenziano Paronzini. È un invalido del fronte greco-albanese della Seconda Guerra Mondiale e lavora al Ministero delle Finanze come capo ufficio sul Lago Maggiore. Qui un giorno si alza, insomma, e capisce che un uomo vero alla sua età ha bisogno delle, dice lui, delle 3C, cioè carezze, caldo, comodo. Inizia quindi a corteggiare un gruppo di tre sorelle ricche ereditiere di un tipo, di un vecchio signore che muore all'inizio del film. Riesce a sposarsene una, vanno in viaggio di nozze, dal ritorno del viaggio di nozze dove lui non è riuscito a diciamo compiere i propri diritti coniugali per un problema di irritazione intima della sua amata, per rifarsi, insomma, dal ritorno del viaggio di nozze, riesce comunque ad appagare i suoi desideri con le due cognate, tutte e due. Questa situazione, insomma, si esaspera, lui che si intrallazza con tutte e tre, si esaspera fino al record massimo che riesce a raggiungere di farsele tutte e tre nello stesso giorno. E lo stesso giorno, quando ci va a trovare anche con la cameriera, purtroppo viene colto da una trombosi fulminea, finisce in carrozzella muto. Finisce il film, insomma, a proposito di storie tragiche, e lo riveriscono. Ve l'ho portata perché la colonna sonora che abbiamo sentito, cioè questa qui, è appunto stata scritta da Buongusto, da Fred Buongusto, che negli anni 70 si è messo a scrivere la colonna sonora di molti film di quel tempo. Ne ha composta più o meno una trentina. Questa qui in particolare che abbiamo sentito, che stiamo sentendo, è suonata dai Giganti. Tra altri film che ha fatto, per dirvi, Il Tigre di Risi con Gassman, Malizia di Samperi con Laura Antonelli, idolo dell'erotismo italiano, La Cicala, sempre di Lattuada, eccetera eccetera. Io vorrei, insomma, farvi capire che tipo di figura strana è questo Fred Buongusto. Altre cose che vi posso dire per inquadrare questo personaggio del piacione Latin Lover italiano è che si è sposato una soubrette molto famosa e molto bella degli anni 50, nel 67, tale Gabriella Palazzoli, che poco prima aveva avuto una menzione, diciamo, nella cronaca rosa nazionale per un matrimonio durato pochissimo con John Drew Barrymore, che poi è il padre di Drew Barrymore, quella, insomma, di Scream, delle Charlie's Angels. Con lui aveva fatto un film, lei, che si chiama Blit, una figlia, scusatemi, Blit, che poi l'ha cresciuta appunto Buongusto. Poi questo personaggio che andava molto, parliamo sempre di Fred, che andava molto in Brasile, in America Latina, molto amico di Toquinho, che tra l'altro ho scoperto anche lui, cazzo, aveva origini molisane, anche lui, da parte di nonno paterno era molisano e la nonna paterna era calabrese. Assurdo. Comunque, e anche con assurdo. Vinicius de Moraes, perché stiamo parlando di grandissimi della musica brasiliana. Vabbè, niente, insomma, Fred Buongusto tuttora vivente, cazzo, c'ha 82 anni, è un grande, penso stia a Ischia, è un posto che lui frequenta tantissimo, c'ha una casa, ci si piazza, guarda il sole, mangia le cozze crude, immagino faccia questo dalla mattina alla sera. Ci sentiamo la mia canzone preferita adesso di Fred, che è una canzone appunto del 75, di questo periodo, ed è proprio una di quelle canzoni meravigliose, è un testo che io vi consiglio di ascoltare molto bene, perché è proprio quel tipo di corteggiamento, di situazione amorosa piena di luci rosse e non lo so, di atmosfere anni 70, la vedo proprio come una cosa, le canzoni di Mina, certi film. È bella, è lui che si ritrova a casa di questa donna e dice: mi hai invitato a cena, non capisco perché. E poi piano piano capirà il perché, perché lei non gli ha cucinato niente e in realtà ben altre sono le volontà. Insomma, aiutatemi a dirlo, eh? Dai, ciao, ve l'ascoltate. Fred Buongusto, che bella idea, 1975. Siamo qui, qui da te, lo sapio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io mi annoio, quasi quasi vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, va va va va, di tan vai a va da. Però che bella idea, fasce di brillant. E allora evviva, spero che vi sia piaciuta questa bella idea, spero che vi siano piaciuti questi due pezzi di cuore, questi due pezzi di cuore infranto a pezzi, sparpagliato dal dolore per la lontananza da voi, amiconi di Fuoco alle Polveri, tele radioascoltatori di Radio Wombat. Tanti cuoricini. Viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat, sempre viva, e viva la tristezza data dall'amore. Tenimmo cora a pezzo, ma cavim fatto qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso, ti engo, fugo a pezze, ma che già fa? Corri, Forest, corri! Estemporanea, ma giusta. Per riprendersi un po' dalla tristezza di questa sigla che rappresenta il nostro Nino col cuore a pezzi sul marciapiede opposto, sotto la pioggia, non sotto la doccia come qualcuno ha frainteso oggi. Comunque, bene. Volevo dire che il caro Peppino, che prima non sapevamo, nel 74 fa pubblica una canzone dal titolo Quando è figlia chiagne e vo cantà, cer cantà sac e dalla libertà. Mamma mia. Pensate. Grande Peppino. Ma torniamo dalle nostre parti, perché abbiamo in scaletta adesso ad aspettarci la nostra nuova rubrica preferita su riguardo a sì, non lo dico a tutti. La rubrica su Firenze, la nostra Lazzi intra Lazzi. Come era? Lazzi intra facce, facette. Facci, fatte. Però, ci siamo quasi, sì, sì. Fatti, faccende, fattacci. No? No? Facce. Fatti facce? Fatti facce? Fatti cazzi tuoi. Fatti facce, faccende, facezie. Mi pare. Lazzi intra Lazzi, facce, facezie, fatti e. E così da e Firenze. Strafatti, certo. Strafatti da Firenze. Strafiche. Poi ve lo scriviamo per esteso. Faremo anche una sigla presto. Grande Mario. Benvenuto, bentornato. Beh, grazie ragazzi. Io, come avevo detto due settimane fa, questa rubrica non avrà una base costante, ma ogni volta sentiremo una canzone di introduzione che ci porta verso il tema. Quindi, siamo pronti? Mani avanti. Sì, sì, tutti mani avanti, eh. Pronti a cadere e dai, si va. Nella grande foresta, lontana e misteriosa, c'è un gruppo di animali che vivono così. La scimmia Caterina, un po' sciocca e dispettosa, che prende in giro tutti, ridendo più non posso. Ugo il rinoceronte è immerso dentro l'acqua, che c'è un sole che spacca, il caldo lo fa mattir. Poi arriva quatta quatta, la zebra che è un po' matta, il suo nome è Nicoletta, in cucina si diletta Riccardo il pappagallo. Ci siamo quasi, eh? Lo vede da lontano e non sa più cosa dire. Attenzione, attenzione. Attenzione. Dov'è? Che fa? Ma è là. Flavio il leone è il re della foresta, muove solo la testa, tutti ubbidiscono. Flavio il leone corre un bel po' sdentato, di colpo è diventato un gran simpatico. Eccoci. Flavio il leone, il re della foresta, muove un po' la testa, un po' sdentato, è un gran simpaticone. Capolavoro. Mamma mia. E un leone è anche il protagonista della nostra storia. Oh. Questa storia... Come andavamo perché, infatti? È un coprotagonista, anzi, perché il protagonista è il buon Anselmo. Dunque, Anselmo è un giovane, anzi un signore di Firenze. Occhio qua. È un signore di Firenze che vive una vita tranquilla fra il 300 e 400 in via del Cocomero, l'attuale via Ricasoli. Okay. Un uomo mite, pacato, buono, ben voluto da tutti, con una famiglia felice. Fin quando da un giorno all'altro, anzi diciamo da una notte all'altra, non prende ad avere un sogno, anzi un incubo ricorrente. Sogna infatti di notte che un leone gli sbrana la mano, lo azzanna una mano e poi lo sbrana. E si sveglia in preda al panico, ai terrori e ai sudori. Certo. Se fosse l'evento di una sera, nulla di grave. Il fatto è che questo sogno è ricorrente. Inizia tutte le sere a sognare la stessa cosa. E non riesce più a dormire, sta malissimo, smagrisce, smette di mangiare. E con questa storia inizia a sviluppare anche il buon Anselmo una fobia grandissima verso i felini in generale. Anche i gatti lo spaventano tantissimo. Okay. A Firenze al tempo di gatti, fra l'altro, in giro c'era un botto, più di ora, sicché era un casino, vive con la fobia dei felini. E allora, siccome però si trattava di un sogno, amici, parenti, familiari, allargati, insomma, pensano di trovare un modo per fargli risolvere questo suo problema. E allora lo invitano, per esempio, ad accarezzare dei gatti mansueti, oppure andare a vedere dei leoni in gabbia, visto che ce n'erano tenuti proprio a simbolo della città, dietro a Palazzo Vecchio, in quella che si chiama ancora oggi via dei Leoni, perché infatti c'erano delle gabbie dove venivano tenuti i leoni, che sono l'animale simbolo della città, il marzocco, insieme al giglio. Poi ne riparleremo del simbolo. Comunque adesso sappiamo che il simbolo della città era il leone, ce n'erano di tenuti vivi in città, ma insomma il buon Anselmo non ne voleva sapere, in gabbia, gatti, non ne voleva sapere. Dai che ti ridai, la voce gira, fino a quando non arriva un medico che stava dall'altra parte di Firenze, un cerusico come si sarebbe detto allora, che se ne arriva con una proposta bello bello da Anselmo, e gli dice che s'accostasse a un leone finto, anziché vero, per cercare di vincere la sua paura, come ce n'erano scolpiti qua e là in città, appunto in quanto era quello il simbolo della città. E a quale leone scelgono di rivolgersi? Proprio a quello che sta in fondo a Via del Cocomero, che è l'attuale appunto Via Ricasoli, cioè dalla parte del Duomo, perché se percorriamo Via Ricasoli, spalle a Piazza San Marco e direzione Duomo, in fondo a Via Ricasoli, attraversando il pezzo di Piazza del Duomo, ci troviamo davanti a una delle porte laterali del Duomo che si chiama Porta della Balla. È la prima della fiancata sinistra, che ha dei colonnini a spirale appoggiati sotto a due sculture leonine a fauci aperte. Quindi sono queste due piccole sculture di leone alla base delle colonne che stanno al fianco della porta. E quello era la mira, insomma, del buon Anselmo. Sarebbe dovuto andare lì ed accostarsi a questo leone. L'idea piacque e finalmente Anselmo decise che poteva essere il giorno giusto per tentare di vincere la sua paura. E allora la mattina questo mega corteo, arrivano tutti amici, parenti, curiosi, vicini, un fottio di gente, tutti dietro Anselmo che se ne va bello bello di buon'ora alla Porta della Balla per vincere questa sua paura dei leoni, un fatto ormai diventato famoso a Firenze. Arriva lì, grande silenzio di tutti, Anselmo sale i 5 gradini che conducono fino alla base della porta, si rivolge al leone di sinistra, che sono due leoncini che stanno proprio a fauci aperte, quindi c'è un incavo nella bocca, e con circospezione, un po' di timore, inizia a mettere lentamente la mano dentro alla bocca del leone di pietra. Caso volle che lì dentro si era annidato uno scorpione, che punse Anselmo al dito, che colto da spavento stramazzò al suolo e morì all'istante. Fine della storia e povero fine Anselmo, della vita del buon Anselmo, che aveva sognato di essere azzannato una mano e poi sbranato da un leone, e così in effetti in qualche modo. Quindi abbiamo una morale, c'è una morale, esatto, vogliamo sapere la morale della non storia. Abbiamo nessuna morale, non abbiamo nessuna morale, tipo occhio ai sogni oppure occhio ai leoni oppure no, anzi non infilare la mano nei buchi, questa non è male, questa non è male. Di base poi a meno che non siano essi stessi a domandarlo. Esatto, se esatto. Non è consenziente. Se il buco se non è molestia ci sta uno scorpione che ti azzanni al dito. Anzi, forse fa bene, bene. Comunque ragazzi, sulle morali ci dobbiamo lavorare, sì, dai, molto. Sulle morali ci dobbiamo lavorare. Ah, bella questa però, bella questa, questo lazzo intrallazzo. Sì, sacco di storie. Ne abbiamo tantissime, ci stiamo solo scaldando, Che meraviglia. Mano avanti, caschiamo in piedi. Mano avanti, caschiamo in piedi, giusto? Gambe in spalla e non le mani in zaino mano. Sotto braccio. Comunque mi ha fatto sempre ridere il detto gamba in spalla, perché poi mi domando come corri con le gambe in spalla. Però testa in giù, magari veloce. Chissà da cosa viene, ma potrebbe essere, no, forse più da Bricobaldo. Un po' una, bisogna ricercarla questa cosa. Ecco, allora ti diamo questo compito. Vai. Un po' come gamba i compiti che mi davano a me per i detti dal mondo. Aspettiamo la prossima puntata di Lazzi entra Lazzi per sapere anche la storia del marzocco, del simbolo leonino di Firenze. Sì, ce la giochiamo sempre sulle curiosità, gli aneddoti laterali. Non è sì, che ci piacciono di più, sì, sapere sì, meno interessanti, meno mainstream. Ben detto. Ben detto. Allora, cosa... Ah, adesso ascoltiamo un'ottima musica selezionata dai nostri registi. Mascalzone! Mascalzone, sentiamo ecco se... qua. Cosa ci regali? Andiamo con Dead Man Bones, In the Room Where You Sleep. Saw something sitting on your bed. I saw something touching your head. In the room where you sleep, in the room where you sleep, where you sleep. In the room where you sleep. Dead Man Bones. Il cantante è Ryan Gosling. Avete capito? È fatto insieme quel mostro. A un altro attore di teatro, sempre americano, e al coro di Los Angeles, fondato da Flea. Quindi c'è anche Flea. Flea e bassista delle Dot. Beh, sì. Senti là che... Non so male, sono bravo. Hanno fatto un solo CD tipo 10 anni fa, però... Vabbè, uno basta e avanza a volte. Dice. E ringraziamo ancora Mascalzone per la sua selezione musicale. Ricercatissima. Prima di passare alla prossima rubrica, volevo annoverare un altro fattaccio avvenuto a Firenze proprio ieri, ovvero l'incontro del nostro caro sindaco con il nostro caro Minniti. Sì, sì, che si vogliono benissimo. È venuto a trovarci per progettare per noi, ringraziamo anticipatamente, grande, il nuovo patto per la Firenze bella e sicura. Ci vuole. Ho i brividi, ho il timore di ciò che cosa. E dice che è un accordo strategico per la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, in particolare nelle zone maggiormente degradate. Tipo? Chiaramente non specifica, almeno può essere qualsiasi cosa. No, e soprattutto non specifica cos'è questa sicurezza, se non che hanno già previsto una nuova invasione di agenti nelle strade per controllare, monitorare e punire e reprimere tutto ciò che si muove fuori dal loro controllo. Quindi insomma, io starei tranquillo. Comunque, se lo propone compagno Minniti, adesso è una buona cosa. Sì, no, infatti. Non ti fa spaventare dalle parole, vedrai. Sarà allora, un provvedimento di sinistra. Lo veniamo fra i fatti, ragazzi, fra i fattacci. E si uscirà a Pistoia, che se deve fare? Vai in provincia. Vabbè, comunque non parliamo più di queste cose che ci tolgono l'appetito, perché abbiamo in ballo, in pentola, cosa sta bollendo? In pentola. Sei sempre più bravo. Ah, mamma mia. Cosa bolle. L'allievo supera il maestro. E Brico Baldo, sì, no, aspettate, che sono incastrato. No, volevi dire? No, aspetta un attimo. Andava detto, cos'è che bolle in pentola? Ah, te giusto. Dicevi Impastillo sbirillo. Ho fatto uno di troppo? Sì, hai fatto uno di troppo. No, era la terza che andava. La quarta. Non proviamo abbastanza, ragazzi. Non proviamo, diciamo, ci vediamo domani in sala prove. Non vinceremo mai il rock contest senza prove. Delle air band. È che questa rubrica manca da tanto tempo e quindi avete perso l'allenamento. Mi dispiace. Ciao, di questo. Buonasera. Buonasera. Cosa bolle in pentola in questa stagione? Cosa succede? Ah, gli occhiali. Aspetta, mettiamo un po' di sigla mentre ti aggiusti. Sì, mentre... Possiamo anche cambiare se vuoi. Non sento più niente. Bene. Vi siete scaldati? Avete messo l'acqua a bollire? Ok, perfetto, perché oggi mangeremo stasera pasta con broccolo. Sì, ragazzi. Perché i broccoli sono di stagione. Se voi andate nell'orto, nel vostro orto, che sicuramente avrete, trovate. Non ci sono i pomodori. Oddio, magari qualcosina ancora c'è rimasto. Però insomma, pomodori basta. Dai, si sono mangiati tutta l'estate. Via. Dai, si comincia con le verdure. Con le verdure invernali, autunnali, belle, colorate. Buonissime. Vabbè, impazzisco quando arriva l'autunno per la cibaria che arriva sulle nostre tavole. Una di queste cose sono i broccoli, eh? I broccoli, dice, fanno tanto bene. Non so, dice, gli americani sono fissatissimi con i broccoli negli ultimi anni, li mangiano in tutte le salse. C'è questo broccolo, poi lo chiamano broccolo, non hanno la traduzione. Broccoli. Che faticoni. Sì, non l'hanno tradotto, ma vabbè. Comunque, pasta con broccolo. Hanno una sega loro. Va bene, semplicissima, signori. Vi ci vuole veramente quando tornate dal lavoro, dallo studio, veloci a casa, non avete tempo? Bene, prendete due broccoli dal frigo, va bene, li date una ripulita un attimo, togliete il grosso del gambo e li spezzettate un po', le mettete in una pentola insieme all'acqua e un po' di sale, che sarà l'acqua della pasta, e le mettete a scaldare. Bene, quando sta bollendo fatto? L'acqua, fatto. Bene. Prendete abbondante golla vinilica. No, va bene. Comunque, allora, quando bolle l'acqua, voi cosa fate? Perché due broccoli? Due broccoli è per dire, cioè, due broccoli, nel senso, quanto basta, cioè, nel senso, cubi. Sapete, io non... Siamo in una cenetta romantica io e te, che cosa? Allora, io e te in una cenetta romantica, te quanto mangi? Io so una boccuccia. Una boccuccia. 90 g di pasta. 90 grammi di pasta, sì, vabbè, 100 grammi di pane da mangiare insieme. 100 grammi di pane. Ok, all'incirca, va bene, facciamo così, per duetti, vabbè, duetti di pasta, per due stomacini un po' deboli, così. Mettete, che ne so, due o tre broccoli... Tre broccoli di dimensioni piccole e due broccoli di dimensione media. Va bene? Quindi l'avete spezzettati, l'avete sciacquati, l'avete spezzettati, l'avete non sbriciolati, pezzetti abbastanza grossi. Avete tolto il gambo, la parte che poi rimarrebbe dura, se no, ficcato nell'acqua con un po' di sale, e mettete a scaldare. Quando bolle, naturalmente, ci fate una pasta, quindi cosa fate? Ci buttate la pasta dentro a bollire insieme ai broccoli e tutto il resto. Nel frattempo che la pasta cuoce, quando c'è 10 minuti, quindi ragazzi, non perdete tempo, fate un bel, in una bella padella, fate un soffrittino con olio, insomma, non lesinate, aglio, mai di olio, mai lesinare di olio, aglio, non lesinate neanche di aglio, un peperoncino e un'acciuga, o pasta d'acciughe, quello che volete. Fate scaldare tutto bene, fate soffriggere, fate sciogliere l'acciuga, di modo che venga una bella amalgama, stando attenti, stando molto attenti a non bruciare l'aglio, perché se bruciate l'aglio, ragazzi, fa schifo, cioè dovete rifare tutto da capo. Impicciate il tutto. Esatto, e però attenzione, perché voi accendete il fuoco, l'olio si scalda, vedete che è quasi pronto l'aglio, che si sta cominciando a nerire, lo spengete. No, è tardi, perché l'olio... No, ragazzi, cioè dovete spengerlo un po' prima, perché altrimenti continua a cuocere, è un casino, va bene? Quindi per fare questo soffrittino, 2 minuti, 3 minuti, lo spengete, aspettate che la pasta sia ben cotta, al dente, quindi la togliete anche un po' prima, va bene, che sia al dente, la scolate non troppo. Che brucia? La scolate non troppo e la rivergate nel soffritto con un po' di acqua e rucola, ma non troppa. Fate saltare in padella per ancora un minuto. E poi, ragazzi, è pronta. Ottima, buonissima. Mi farà un semplicissimo. Le fromage al gusto, I puristi dicono di no. Un pizzichino ce lo metto. Sì. Non avete bisogno di fare sughetti, perché il broccolo lessato si spappa. Sì, esatto, mentre la parte più grande, il gambo, rimarrà abbastanza croccante, il fiore, diciamo, la parte più estrema, l'apice, si spappolerà a favore della cremosità. Come ci dice il faraone. Come ci insegna un nostro caro amico, quasi guida spirituale, gastronomica. Non esitate, assolutamente. Bene, ragazzi, che vi devo dire? È un grande piacere tornare a fare le ricette per voi. Io sono sempre qua, cucino e mangio, quindi insomma, quando volete potete richiedere. Ok. Beh, ma noi la proveremo, questa pasta con, ragazzi, la nota d'artista dell'acciuga e del peperoncino. Ma scherzi. Un classico. Questo, dici. Vi lascio un pezzo. Sì, che pezzo ci lasci? Non lo so. Pezzo ci fai, regia? Oh, finalmente. Un pezzo un po' autunnale, culinario. Autunnosissimo. Autunnosolo. Verdena. Vai. Per forza. Sta saltando un po' la connessione qua. Sì. Ma noi registriamo imperterriti, per chi ci sta sentendo male adesso, ma ascolta le mie parole, troverà da fra stasera in poi il podcast. La ricetta dei broccoli, sì. Con forza nel podcast. Se vi siete persi, il soffritto, guarda, ve la riascoltate. E poi se proprio doveva saltare sui Verdena alla fine. Verdena, l'Oniter. Yeah. Eccoci qua, super pezzo, eh? Scusate per gli inconvenienti tecnici. Sì, ma ormai sono abituati i nostri ascoltatori. Ti ricordi l'anno scorso quando si saltava? Mamma mia, che salterini! Ma noi non ci rassegniamo, invece rassegniamo gli eventi della settimana. Beh, ragazzi, ma qui veramente c'è una bravura diffusa. Una sintonia che manca sulla radio. Abbiamo anche su questo una sigla, forse? Ce l'abbiamo. Allora, non ci resta di dire sigla! Rassegna eventi. Minimale. Minimale, ma ben esprime la difficoltà con cui arriviamo a concludere sempre tristemente questa la trasmissione, che vorremmo non finisse mai. E poi anche ne voi facciamo ascoltatori, sempre un casino per metterti i bastoni fra le ruote. Ebbene, cosa abbiamo questa settimana in programma? Roba buona. Come al solito, un sacco di cose. Io ogni settimana mi preparo, ma poi ogni settimana cambiano gli eventi e quindi devo riprepararmi. Cominciamo da martedì, perché oggi è lunedì, ormai siete tutti vi sintonizzati su Radio Wombat e quindi non avete nient'altro da fare. Quindi parto da martedì. Martedì 24, alle ore 15, il Comitato Inquilini di Firenze organizza un presidio presso gli uffici dell'assessorato alle politiche sociali, che si trova in piazza di Parte Guelfa, e organizza questo presidio per protestare contro la mancata risposta dell'assessore Funaro alla richiesta di incontro sulla questione dell'emergenza sfratti. Infatti l'evento di lancio di questo presidio si intitola L'assessore dov'è? Appunto, martedì 24 alle 15. Alle 16, alle 4 e mezzo invece, si svolge come ogni martedì in polveriera il laboratorio di rebirthing con Francesca. Rebirthing è una tecnica di autoguarigione che si basa su tecniche di respirazione circolare. È una cosa bella, utile al benessere, e è gratuito la partecipazione. Vi serve soltanto un tappetino per non stare col culo per terra. Sul tardi invece, ad Agraria, nella famigerata Aula Murales, l'aula autogestita del collettivo di Agraria, appunto, inizia l'Agraria Trash Film Festival, un appuntamento ormai storico che organizza il collettivo di Agraria da parecchi anni, che ripropongono questo appuntamento stradivertente, e questa volta proiettano, si chiama Yakuza Apocalypse, un film d'azione horror grottesco che visto? Confermi che è un capolavoro trash? Sì, è un capolavoro trash, sì. Non ti fai mancare niente. No, ma io sul trash sono ferratissimo. E qui si mescolano alla perfezione storie di mafia giapponesi e vampiri, che sono due temi che spesso si legano nella cinematografia trash. Come tenerli slegati. E quindi niente, alle 6:30 incomincia la proiezione, poi c'è l'aperitivo e dopo si svolge una bella jam session. Quindi se portate anche lo strumento potete anche dare il vostro contributo al livello del trash della serata. Certo, si alza o si abbassa, a seconda. Poi abbiamo, salto a giovedì 26, perché c'è un bellissimo appuntamento, una specie di compleanno, credo sia, della Critical Mass, che è la Critical Mass, per chi non lo sapesse, per chi vivesse fuori dal mondo e non abbia mai neanche ascoltato. Quindicesimo compleanno. Quindicesimo compleanno, sì. incredibile. Chi non avesse nemmeno ascoltato mai Fuoco alle Polveri la scorsa settimana, infatti, e non sa cos'è. Mandiamo un comunque la prossima puntata potrete avere un resoconto, fra l'altro, se non potete partecipare da te stesso medesimo. Sì, da me stesso medesimo, esatto. Il nostro Bricco che andrà con che andrò, in punta di pedale per la andrò in punta di pedale a fare la Wombat telecamera. Esatto, esattamente. Comunque, per chi non lo sapesse, la Critical Mass è un appuntamento, un raduno di biciclette organizzato un... Già, si diceva l'altra volta, è una coincidenza. Per caso ci ritroviamo. Organizzata per riappropriarsi delle strade della città che vengono occupate prepotentemente dallo traffico su gomma, dallo smog e dai sensi unici illegittimi. Quindi niente, per farla breve, la coincidenza da prendere è alle 6:30 in piazza Santissima Annunziata. La partenza poi sarà intorno alle 7 e mirerà verso il CPA che sta in via Villa Magna, dove ad aspettarci c'è l'inaugurazione della nuova ciclofficina popolare chiamata Brugola Rossa. Bellissimo. Quindi, bellissimo appuntamento imperdibile, reso ancora più imperdibile dal concerto delle O'Brien Bombers che si tiene dopo. Forse l'avete già ascoltate felicemente a uno dei mercati in polveriera qualche tempo fa. Le O'Brien Bombers sono un trio di musiciste, tanti altri spazi, sì, ci stavo quello del leone, mi ha capito. Di no, un quartetto, se non sbaglio, sono di musicisti e fanno folk irlandese. Sì, quando avere violino, tin whistle, chitarra e batteria. Sono una splendida, splendida. Quindi alle 6:30 partenza da Santissima Annunziata e poi la sera direzione verso il CPA, inaugurazione della ciclofficina Brugola Rossa e cena popolare e concerto. In alternativa, perché si svolge alle ore 21, sempre stiamo parlando di giovedì 26, c'è un incontro di autoformazione su sessualità e libera scelta che organizza il gruppo Non Una Di Meno Firenze. E questo incontro si svolge alla Libreria delle Donne, che è in via Festolana 2. Insomma, sarà un appuntamento interessante perché si affrontano temi di sessualità, autodeterminazione, interruzione di gravidanza, contraccezione, salute, ma anche piacere, tutto ciò che riguarda la libertà di scelta sui propri corpi. Ci sarà oltretutto presente la ginecologa del consultorio in piazza, quindi c'è anche del c'è un momento di confronto e di crescita non cioè, bello, bello importante. In contemporanea, ulteriore, purtroppo, perché il giovedì è uno dei giorni più caldi, più in mezzo alla come settimana, l'autunno. Quindi si accumulano, fanno buca, un sacco di eventi. Allo spazio inchiostro, sempre alle 9, lo spazio inchiostro in via Alfani, se ne è parlato ormai più volte, c'è una nuova proiezione della rassegna cinematografica che tengono lì e proiettano un bel film, si intitola Pride. È un recente del 2014 che racconta è tratto da una vicenda realmente accaduta quando in Inghilterra nell'84 la Lega dei Giovani Comunisti, in cui militava un giovane attivista gay, Mark Ashton, gli venne l'idea di raccogliere i fondi per sostenere la lotta, lo sciopero dei minatori. Il famoso sciopero dei minatori che sì, contro la Thatcher. Si scontravano con la Thatcher, sì. Insomma, il film è interessante, anche divertente, frizzante, ma ha una forte carica politica e sociale. Insomma, vi invitiamo a partecipare allo spazio inchiostro alle 21. Roba bella. Al contempo, però, ragazzi, nel post serata, gli orari sono quelli, purtroppo è sempre il giovedì, ma presso la polveriera si svolge un evento piuttosto misterioso, perché non sappiamo molto. Sappiamo che si terrà un concerto con degli ospiti di cui non possiamo rivelare il nome, quindi vi invitiamo a non partecipare, perché no, scherzo, però l'ingresso come sempre è libero fino a esaurimento posti, quindi non... Perché sennò il pavimento viene giù, esatto. Penso sia quello l'esaurimento dei posti. Non è uno scherzo. È un secret event. Not a joke. quindi un sacco di roba, fate le vostre valutazioni, le vostre scelte, ma mandate magari il vostro amico a quell'altra per non perdervi niente e scambiarvi poi le opinioni riguardo di tutto quanto. In tutto ciò abbiamo finito il giovedì. Che dì, bello pieno. Bello pieno, ma speriamo non vi abbia sfiancato troppo, perché il 27, il giorno dopo, il venerdì, tutta la giornata sarà per lo più dedicata a un grande sciopero indetto per quella giornata a partire dalle 8 della mattina in piazza Santa Maria Novella, se non sbaglio. È uno sciopero generale dei lavoratori dei settori pubblici e privati, indetto da varie sigle sindacali, la CUB, SICOBAS, l'USI, AIT e altri. E quindi niente, l'appuntamento è alle 8 presso la stazione, no alle 8, alle 10 e mezzo, vedo qui sull'evento che trovate, Firenze sciopera, 10 e mezzo alla stazione centrale, vi linkiamo l'evento per i dettagli, per entrare più nel dettaglio. Saranno sicuramente già informati i nostri ascoltatori sugli scioperi in avvenire. Comunque ci vediamo in piazza venerdì 27. C'è qualcos'altro nella giornata che si lega anche a questo? Sì, la sera invece è un appuntamento più ludico, ma che porta in scena uno dei collettivi musicali più attivi in questi periodi a Firenze, ovvero il collettivo di Machine Funk, che organizza un evento, una serata in polveriera. Ma cos'è Machine Funk? Allora, per l'appunto abbiamo qui uno dei partecipanti di questo collettivo, di quel laboratorio di musica elettronica. Esatto, sì, da 2 anni a questa parte. Ciao, ma peraltro, Nardo. Ciao. Ho conosciuto l'elettronica grazie al Machine Funk. Io sono un batterista da 12 anni, ho sempre suonato la batteria e sono entrato in questo posto, ho trovato il Machine Funk, tavolata di macchinette, storia. E ho cominciato a suonare, mi hanno regalato una macchinetta e ho cominciato a suonare con loro e ho cominciato a fare elettronica anch'io. Perché ricordiamolo che il Machine Funk è un evento, è un laboratorio settimanale anche. Sì, esatto, laboratorio settimanale, aperto a tutti, il mercoledì in polveriera. E è un laboratorio musicale elettronico. Cioè, noi cerchiamo di invitare tutte le persone amanti dell'elettronica, che suonano macchinette, sintetizzatori e roba varia, a unirsi a noi e improvvisare musica e cercare di trovare dei compromessi tra di noi per creare della musica fatta bene. Ma cioè, la base del Machine Funk è, alla fine, se si può dire, il compromesso musicale, cioè nell'improvvisazione. Ma e queste macchinette, cioè, che cosa? Sono drum machine, sono praticamente strumenti per fare elettronica, sono o sequenziatori o sintetizzatori, modulatori, che servono per cercare di creare suoni elettronici, però di metterli in sequenza e cercare di creare roba, delle bombe incredibili, cioè delle musica incredibile. Che poi immagino un Game Boy, tipo. Anche, cioè, si può usare un Game Boy, si può usare qualsiasi cosa per fare elettronica, in effetti. Ho visto usare macchine. Una bicicletta? Probabilmente sì, come. Probabilmente sì. Si pida la bicicletta, si registra la bicicletta e si modula il suono. Bello! E qui nascosto in un angolo oscuro e tetro abbiamo anche un altro esponente del collettivo Machine Funk. Magari ci vorrà dire due parole. Buonasera. Intanto abbiamo questo bellissimo buonasera come contributo. Comunque, appunto, leggevo che questo appuntamento settimanale è un momento di incontro, di scambio, di condivisione, di competenze, sì, aperto a tutti, quindi anche, come dicevi prima, a chi non ha alcuna nozione di, sì, della produzione, esatto, della musica, soprattutto in quella come elettronica. Come ho fatto io, quando sono entrato non avevo nessuna nozione di elettronica, sono entrato lì e guardando, rubando con gli occhi, rubando con l'orecchio, ho imparato a fare elettronica anch'io, fondamentalmente. Il fatto è che è una bomba che non uccide, per tornare al discorso di prima. E sarà una bomba anche questo evento di sabato, c'è un, sì, l'evento in sì, programma. Sì, tutte le improvvisazioni che abbiamo fatto negli ultimi tempi cerchiamo di ricrearle questa serata, cercando di fare musica migliore, cioè improvvisando, ma comunque con una struttura che abbiamo ricreato in questi ultimi tempi suonando insieme. Quindi possiamo rilanciare l'invito aperto a tutti ogni mercoledì a partecipare alla Jam Laboratorio di Machine Funk, che ricordiamolo, specifichiamolo, anzi è autogestito, un laboratorio autogestito, quindi ognuno è responsabile di sé, degli altri, del posto, e di ciò che fa, e è un bel momento di condivisione, ma appunto e di responsabilità su, esatto, quello che si fa. Il mercoledì, ogni mercoledì alle 6 mi pare sia il laboratorio, 5, alle 5, 5, sì, 5 scusa. Mentre sabato questo collettivo appunto organizza una vera e propria serata, un evento, e vedo qui da internet la line up, che sono Nick Gonnella, Massac, THX, Bolna, Zach, Daretta al Mic, insomma un bel assortimento di gente, un bel assortimento a cui DJ più DJ set più session, dicono qui dalle retrovie. Comunque è aperto a tutti, cioè chi può venire porta una macchinetta, si mette lì e suona, cioè, l'idea è quella comunque del Machine Funk. Bomba. È il subello, è il subello, è il subello. iPhone, io potrei attaccare l'iPhone. Potrei attaccare il telefono, c'è una macchinetta dentro il telefono. Poi usando Ableton Link puoi sincronizzare con Ableton Live, con un computer per esempio. Insomma, ci sono varie possibilità che fino a qualche anno fa non c'erano. Di sincronizzare anche appunto i dispositivi, gli iPhone, l'iPad con Ableton Live, insomma i sequencer sul computer, diciamo. Ah il progresso. E invece ora mi tocca invece fare un regresso, perché ho dimenticato alcune cose che accadono il venerdì. Plurime. Questo dicevamo che accade sabato, l'evento Machine Funk. Ci sono mercoledì invece il laboratorio. Il laboratorio, sì. Tutti faccio questo piccolo regresso a venerdì, perché volevo citarvi anche due. Grazie ragazzi. Questa serata, grazie a Machine Funk, ci vediamo sabato. Almeno i nostri ascoltatori vedremo sanno anche di noi quello che parliamo. Ci sarà anche Radio Wombat, sì, con voi. Due Who serate does? Il venerdì sera. Una organizzata dagli studenti di sinistra, un coordinamento dei collettivi delle varie facoltà universitarie, che fanno il consueto appuntamento di Halloween presso la Sballowin, sì, a Morgagni, al plesso di Morgagni. Ah sì, quando il pavimento diventa colla. Sì, tra l'altro, esatto, saranno io ho avuto la fortuna di essere uno di quelli che ripulisce quella colla. Ah sì? Che gioia. Sì, un paio di volte, due o tre volte è successo. Com'è? Levate le piastrelle e in verità, cioè, si toglie tutto il materiale ingombrante, cioè tutto tutto quello che rimane, va bene, e poi buona, ciao, si lascia, tanto passano, okay, con macchinette, ci metti il bidello, passano con le macchinette, l'idropulitrice, sì, abbiamo, sì. Ce l'abbiamo un proverbio per Sballowin, non lo so, non saprei, una morale che semina cosa. Birra raccoglie Natale con i tuoi Sballowin a Morgagni. No, non fa, sì, rima, vabbè. Comunque no, volevo dirvi anche che vedo che nella scaletta della serata saranno ospiti il 43 Factory, il gruppo, quel duo di pazzi scatenati che suonarono a quell'evento in polveriera. Quelli che c'avevano il banchino tutto, cioè, tutto luminoso, sparaflesciante, era una roba, vabbè, molto super fuganti, psichedelica, sì. Era drum and bass, molto movimentato, insomma, si presenta, vabbè, si presenta ballereccia, bene, la situa. In contemporanea, altro posto, altro evento, all'Emerson. Wow. All'Emerson continuano i festeggiamenti per l'ennesimo compleanno del CSA, del Centro Sociale Autogestito di Firenze Nord. E abbiamo la collaborazione del collettivo Nuovi Rumori con Dio Drone e Diserto, che ci presentano questi tre gruppi punk, hardcore. Io con le definizioni sono un po'... Lasciamole agli altri. Sì, lasciamole agli altri. Vi dico i nomi di questi gruppi. Sono i Grime, Sludge Metal da Trieste, i Heil, Crust Punk da Bologna, e i Loia, Black Ned Hardcore da Firenze. La Loia è proprio il sudicio, quello addosso? Esatto, penso proprio sia quello, ma magari... Riferimento letterale. Riferimento. Però glielo chiederemo di persona, perché saremo presenti come Radio Wombat con un DJ set che seguirà... Il banchino. Sì, a parte il banchino con i nostri gadget, i nostri materiali, il palinsesto aggiornato e tutto quanto. E noi anche. La nostra bella presenza. Cioè, noi, dai ragazzi. Wombat, cioè, wombat. Ci potete vedere dal vivo, cioè è una cosa incredibile. L'occasione più unica che rara di vederci vivi. Fuori dalla tana. Perché quando usciamo di solito ci sparano ai wombati, sono animali cacciati dovunque. Sì, ma abbiamo il culo duro. Ma bando alle ciance. Questo era venerdì. Per i più giovani studentelli la festa Morgagni di Halloween. Per i più siamo vecchi, punk, ragazzi, hardcore, il compleanno dell'Emerson a Firenze. C'è un altro appuntamento punk invece il sabato, il giorno dopo. È la 13ª edizione dello Sparacchia Fest, un festival punk hardcore dedicato alla memoria di Felix, che era stato un DJ, un compagno che è stato con noi in tante serate e ha suonato in tante serate al CPA. Insomma, in sua memoria scomparve in un incidente autostradale 13 anni fa, e appunto questo è il la tredicesima ricorrenza che ricordiamo con appunto lo Sparacchia Fest. Dai. Anche qui la lista di gruppi che vengono a tributare il loro saluto e il loro ricordo è numerosa e non ve la sto a Ma come si fa? Cioè, come si fa a partecipare a tutti e tre? A che ora? Cioè, no, questo è sabato e purtroppo coincide con in parte coincide con l'evento Machine Funk, che comunque inizia presto, inizia alle 6 e finisce presto, finisce alle 11 e mezzo, diciamo. Bene, quindi in questa fase. Quindi dopo, mentre al CPA la serata comincia alle 22, quindi avete il tempo di spararvi il Machine Funk, l'evento Machine Funk in polveriera e correre a saltellare sotto le note punk al CPA. E vai. Ebbene, questo è quanto. E la domenica non c'è nulla? La domenica, ci si riposa. In Santo Spirito. Santo Spirito? Ci dicono? No, non lo so. Beh, ognuno si riposa dove vuole. Sì, effettivamente. Dove volete. Sì, sì. Preferisco un prato, sinceramente. Un prato. In effetti sulla domenica non mi sono... Non ho trovato niente questa domenica da fare. No, vabbè, sicuramente... è giusto così. Direi che la settimana è bella, densa, interessante, quindi... Vi lascio un po' di... Possiamo proprio esplode di eventi. Oh, esatto. Si esplode. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, perché sono le 18:40, pur avendo iniziato tardi, dobbiamo mantenere un po' delle regole del palinsesto, perché insomma ci sono anche altre trasmissioni che vogliono la parola. Tra l'altro il palinsesto che trovate aggiornato sul che cresce ogni giorno di più, io me lo dico. È cresciuto, ci sono delle nuove trasmissioni. Pubblicheremo a breve il palinsesto aggiornato. Esattamente, se non sbaglio, però già parte fra poco il... com'era? Coming Wombat, la nuova trasmissione dedicata al cinema, che partirà fra poco, settimana prossima, però non mi ricordo... fra poco adesso. No, settimana, non mi ricordo se è martedì, comunque insomma magari date un occhio al sito Wombat. Sì, sì, poi non facciamo troppe promesse come al solito, che poi dobbiamo no, ma scusarci, è sicuro, però... No, è sicuro che parte, però non ricordo precisamente quando. Noi ricordiamo l'unica cosa precisa che sappiamo, che poi precisa non è mai, è l'appuntamento con Fuoco alle Polveri ogni lunedì alle 4:30, che potete riascoltare in replica alle 10 del martedì e anche il giovedì alle 15. Poi comunque trovate il podcast sulla pagina del sito e ve lo sparate. Bello, pronto, sfornato già, sì. Probabilmente stasera o domani mattina. E poi queste informazioni chiaramente sono per gli amici, perché già chi ci ascolta ci sta già ascoltando. Bravi, un applauso per voi. Bravi, un applauso per voi. Un applauso per noi. Allora, ormai siamo arrivati alla fine. Volevo ragionare oggi un po' con la parola chiave referendum. Visti un po' che avevamo già parlato della Spagna, un po'. Questo referendum su Lombardia-Veneto e il ben più importante un po'. Esatto, il ben più importante referendum curdo del 25 settembre, che poi ha avuto delle ripercussioni. Kurdistan, che a noi è molto caro, perché Kurdistan non esiste, insomma, vicende curde. Come non esiste? Esiste come? Non come stato indipendente. Ma insomma, tempo al tempo. Allora, ne ragioniamo nella prossima puntata, se abbiamo tempo, ci farebbe molto piacere. Vi invitiamo sempre a mandarci qualcosa, non so, canzoni da mandare, questioni da chiacchierare, anche eventi. Eventi da pubblicizzare, che chiaramente sì, io faccio il mio meglio, ma non riesco a coprire tutte le cose che escono, numerose cose che escono in questa città dal basso, perché quelle dall'alto nonostante non ce ne frega Minniti e Nardella. E quindi quindi è arrivato il momento dei saluti, concludiamo cari registi con un bel pezzo oppure no? Dai, diteci dai, un po'. Dai, su. Dai, sì, pezzo. Dai, sì, pezzo dai, rapido. Su. No, devi dirlo te, sei te che comandi, pezzo sai rapido. La baracca. Ora. Allora, pezzo rapido. Finale però di rassegna, direi. Dai. Vai, certo. Ah, vero, vero. Certo, mandiamo la sigla. Se no. Dopodiché, ultimo pezzo che ci rasserena l'animo. E poi ci sentiamo lunedì prossimo alle 4 e mezzo qui su Radio Wombat con le polveri. Ciao a tutti, grazie. Viva. Wombat. Ciao. Rassegna eventi. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control. Come è andata? casa e stavo al fiume, signor, a lavare. Un gringo l'aggredì e la voleva. E ho corso in suo aiuto, avevo il coltello. Quello mi guarda con gli occhi spalancati e muore. Nel cadere avrà battuto la testa. Io gli ho dato solo qualche coltellata. C'erano testimoni? No, signor. Pensaci bene, uno c'era. No, signor, non ne stava nessuno. Cerca di ricordare. Sì, signor, è andata così. Mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo l'aggredì e la voleva.